Come, che mio, prego mio cuore, che salvo

suo nome? Non ho mento. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca, cerca. Non trovo. Cerca. Sciocco, e subito in mente, giudicare forse. Giorno di Natale, nuova sulla soglia, proloco con colonna. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Ritiro! L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La rivedo. Thank you. sposo. Principessa, ci fate languir. ansia. Partite. A mezzanotte. E domani. Poi vedremo allora. Addio. Addio. aurora.

balbetta, confessa, mi vando un biglietto, ricordatilo. Io salgo, e io uscito, il servo mi lascia un istante, e porrà il tiretto, e trovo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Thank you. Hey! Avete una gran fede. E voi? Non credo più. Ho rinunciato al mondo. Tutto mi viene ad aio. Che la bella natura. Rettami a Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Sotto cielo! Per farvi ghiacchierò!

solamente avesse amato. Thank you. 里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.